Eccoci qua, allora, borse in ripresa, scende lo spread, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, questa mattina in edicola, bene dunque i listini in avvio d'anno, tra l'altro Londra e Wall Street sono rimaste chiuse, Milano al più 2,4%, BTP e Bund giù a 499, insomma la soglia proprio, il minimo indispensabile sotto i 500, chiusura poco sopra i 500, insomma, resta debole l'euro e questo viene richiamato nel titolo appunto questa mattina, ma anche nella prima pagina, uno dei temi che affronteremo in maniera più approfondita più tardi, verso un mix part-time pensione. Dopo l'epifania, via al confronto tra governo, parti sociali sulla riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Tra le ipotesi spunta quello di un contratto graduale, modulato per sostenere l'occupazione dei più anziani con la possibilità di un impiego a tempo ridotto in cambio di una prima parte della pensione. Insomma, si cerca di trovare una quadra, una richiesta di aumentare la vita del lavoro, ritardare l'ingresso della pensione e anche a fare i conti con chi ci deve arrivare, e ovviamente sono molti. Intanto lettera INPS a 450.000 pensionati, da marzo serve il conto corrente. Infatti ieri l'INPS ha diffuso questa lettera inviata ai 450.000 pensionati che ricevono in contanti un assegno superiore a 1.000 euro e che entro marzo dovranno scegliere un sistema alternativo tra conto corrente, risparmio postale, strumenti elettronici di pagamento. Intanto per gli immigrati aumenta la tassa di soggiorno. Vedremo che qualcuno questa mattina ne ha fatta appunto la propria apertura. Stipendi record del Parlamento è il titolo di Repubblica, è il titolo con cui Repubblica apre invece la sua giornata. La Commissione dice sono i più alti d'Europa. Montecitorio prepara i tagli. Era da un po', insomma, che si faceva pressione sulla Commissione appunto per fare la valutazione reale di questa complessa realtà che sono gli stipendi, i costi, persino la definizione complessa del Parlamento italiano. Ecco il rapporto dell'organismo guidato dal presidente Istat: in Italia indennità superiore, ma in Francia e Germania pagano di più per i portaborse. Ecco, già possiamo anticipare, pagano di più, però come poi leggiamo in vari approfondimenti, pagano anche direttamente, nel senso che in Germania il conto è nel costo del deputato, ma i soldi per il portaborse vanno direttamente a portaborse o assistente o come lo vogliamo chiamare, mentre in Italia esiste la gestione diretta del parlamentare di questa somma, che naturalmente apre a ulteriori problematiche e interrogativi. Ma insomma, questo per il titolo d'apertura a centropagina. Invece per Repubblica si comincia a parlare di America. Siamo appena all'inizio, al 3 gennaio di un anno che lo ricordiamo dal punto di vista americano e anche quello elettorale, ovviamente stiamo parlando di novembre, c'è molto tempo, eppure Iowa il terzo incomodo nella corsa degli anti-Obama, al via dunque la sfida tra Romney, Paul e l'italo-americano Santorum. È proprio Rick Santorum, repubblicano italo-americano, è il soggetto della fotografia che oggi a centropagina Repubblica appunto mette pubblica per raccontare questo passaggio. Iowa, un piccolo stato eppure con una tradizione che ne fa appunto l'appuntamento di apertura della corsa elettorale, di apertura dell'anno della corsa elettorale. Altro tipo di elezione, ma molto importante per il continente africano, se anche Youssou N'Dour vuole scendere in campo, ci racconta invece Youssou N'Dour, dunque cantante, produttore, imprenditore editoriale molto importante, proprietario di radio a Dakar, Senegal, se la politica può essere un'arte, perché un artista non può essere un politico. Certo che può, scrive Vittorio Zuccone, risponde dalla storia un possente coro greco di poeti, drammaturghi, cantanti, compositori, rapper, comici, finanzieri, eccetera, fino al grande senegalese Youssou N'Dour, che si candida alla guida della Repubblica Africana. Ancora vediamo di Dalle prime pagine, Riforme Monti ora accelera, quindi è il Messaggero, ma soprattutto il caso per il Messaggero, per il quotidiano romano, sono gli orari liberi dei negozi, commercianti divisi, polemiche e divisioni. L'abbiamo sentito anche nel corso di GR24 sulla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali che non hanno più vincoli di giorni e di orari. La rivolta dei negozianti parte da Roma, dove Confesercenti minaccia la serrata, ossia lo sciopero generale del settore, contro i continui interventi di governi nazionali e locali che colpiscono esclusivamente le piccole e medie imprese del commercio. La tesi, appunto, in queste ore è che una liberalizzazione come sugli orari, come appunto partita, come quella partita ieri, di fatto favorisca solamente le grosse strutture, grandi centri commerciali, e penalizzi un settore che è quello, diciamo, tradizionale del negozio tradizionale italiano. Ecco, divisa invece la categoria sugli orari liberi per bar, ristoranti e altri pubblici esercizi che potranno restare aperti anche tutta la notte. La regione toscana intanto si muove, ha deciso di impugnare le nuove norme davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di competenza. Sul fronte pro liberalizzazione ci sono i consumatori. La riforma offrirà più opportunità di acquisto e di scelta, assicura Carlo Pileri, presidente dell'ADOC. Naturalmente si parla, ne abbiamo parlato già ieri, insomma, il tema dell'Europa e degli appuntamenti europei. Il 23 di questo mese una prima riunione, diciamo, dei vertici dell'Europa, che poi si riuniscono formalmente nel Consiglio di fine mese. E proprio su questo tema oggi è Massimo D'Alema, che è intervistato dal Messaggero. Il Premier lavori per una svolta dell'Europa, e di questo vedremo anche di parlare più tardi. Ecco qua, poi il Secolo XIX, la rabbia di Fincantieri. Fincantieri brucia la rabbia degli operai, navi bloccata. Su temi del lavoro e sotto il titolo appunto uguale, in questo caso è Lavoro Monti accelera, quindi identico per Messaggero e Secolo XIX, ci sono poi c'è il racconto del disagio, delle difficoltà di fabbriche, di imprenditori, di luoghi anche simbolo del lavoro. Sicuramente Fincantieri è uno di questi. L'immagine, la fotografia rappresenta l'assemblea dei lavoratori Fincantieri che presidiano il polo di Sestri, ha deciso il blocco della nave in costruzione. Il caso benzina anche sulla prima del Secolo XIX, ecco perché in Liguria si paga ancora di più. Con il 2012 è scattato l'aumento di 6,1 centesimi per coprire i costi dei danni provocati dalle alluvioni. Soltanto nelle Marche il pieno è ancora più salato. Stipendi dei politici, il dossier, questo è proprio la scelta di questa mattina del Corriere della Sera, che in prima pagina riporta anche due fronti internazionali caldi, molto caldi. Da una parte i duellanti di Teheran e i rischi per tutti, cioè cosa c'è dietro ai missili, e i duellanti in questo caso sono Ahmadinejad e Khamenei, quindi il premier e l'autorità religiosa che rappresenta appunto la continuità nella Repubblica Islamica. Dall'altro anche un fronte africano di cui abbiamo parlato parecchio in questi giorni, ed è Al-Qaeda in Nigeria, via in tre giorni o morte, un ultimatum ai cristiani lanciato appunto nel nord, maggioranza musulmana della Nigeria, via tutti entro tre giorni o morirete. La minaccia viene dagli integralisti legati ad Al-Qaeda dopo la strage di Natale nelle chiese del paese. Allora, che razza di tassa è il titolo questa mattina del Manifesto, già perché tra le molte tasse, tra i molti appunto costi che che emergono fin da questi primissimi giorni dell'anno, c'è anche l'imposta tra gli 80 e i 200 euro per chiedere o rinnovare il permesso di soggiorno. Arriva la stangata anche per gli immigrati, firmata Maroni e Tremonti e non cancellata dal governo Monti. Servirà a pagare i rimpatri forzati e le spese per l'ordine pubblico. L'ARCI dice si ricordano di loro solo per farli pagare oppure per espellerli. Questa è l'apertura del manifesto, mentre per la Padania, lavoro innescata la bomba sociale. Le tasse fanno esplodere la crisi, il paese scivola nel panico, il 2012 presenta già il conto di 300.000 disoccupati, 9 cittadini su 10 rinunciano a spendere, il federalismo scompare dai discorsi e dov'è finita la benedetta ripresa di Napolitano e Monti e il titolo appunto accompagnato dalla grande fotografia nel centro è Capodanno, però con il capo e il danno separati. Il capo è il Presidente della Repubblica, il danno è il Presidente del Consiglio Monti. Dobbiamo ancora smaltire appunto il Capodanno. Questa è l'apertura di oggi della Padania. La Stampa, grande spazio all'incontro intervista con Romney, dunque ritorniamo alla sfida americana, perché tra i vari temi toccati dal candidato repubblicano c'è quello che diventa titolo: neanche un dollaro per l'Europa. Questo il passaggio chiave di questo racconto. Ma ancora invece due storie italiane tra quelle riportate in prima dalla Stampa: i rincari in autostrada, aumenti con il giallo, Federconsumatori un punto in più di quanto annunciato. E un altro tema che riguarda sì le vacanze, il fine anno, ma ovviamente anche l'economia, la certificazione del flop dei Cinepanettoni. Cinepanettone processo a un flop, ha incassato 9,7 milioni di euro nel periodo natalizio, la metà dello scorso anno, e Barbera dice non sia un capro espiatorio. E gli attori poi all'interno intervistati appunto su questo anno difficile lamentano un accanimento nei confronti di questo modello appunto di film che va male, ma insomma va male come un po' tutto quanto in realtà, e non è solamente, poi vedremo, il Cinepanettone in quanto tale. Il Fatto Quotidiano: così il paese esplode, centinaia di imprese in crisi, a rischio 300.000 posti di lavoro, l'anno nuovo si apre con un'emergenza sociale senza precedenti e mentre i prezzi volano ai sindacati si chiede moderazione. Dopo gas e luce arriva l'aumento della benzina. Landini della FIOM dice altri sacrifici per gli operai è peggio degli anni 50. Un tavolo per il lavoro, serve un'intesa. Il Riformista dice tempi stretti. La fotografia che accompagna il titolo d'apertura è quella che raccoglie il presidente Monti e il ministro del lavoro Fornero. Comincia la triangolazione governo, sindacati e partiti in vista della riforma. Dalla prossima settimana via al confronto tra Fornero e le parti sociali. E l'allarme prezzi è anche l'apertura dell'Unità. In questo caso la foto racconta un distributore di benzina, quindi gli aumenti di benzina, tariffe e pedaggi si abbattono sulle famiglie. Erano proprio inevitabili, si chiede oggi l'Unità in prima pagina. Ai pensionati niente contanti sopra i 1.000 euro, gli immigrati stangata sui permessi di soggiorno. Per il Giorno invece è Grillo sparlante, fisco, bombe a Equitalia, frase shock del comico. Oltre a condannare la violenza bisogna capirne le ragioni, dice Grillo. Insorge Befera, direttore delle entrate, stavolta non fai ridere. I politici divisi, il web si scatena contro l'agenzia della riscossione. La casta frega pure Monti, è invece l'apertura di Libero. Stipendi d'oro salvi, dopo 6 mesi la commissione che doveva allineare la paga dei nostri parlamentari a quella dei loro colleghi UE rinuncia, compito troppo delicato, attese eccessive. Ritorniamo e ripartiamo proprio da questo punto subito dopo, abbiamo però qualche minuto di pausa, poi ritorniamo insieme. 7:33 minuti, ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia. Stavo dunque mettendo in ordine un po' di pagine sugli approfondimenti per i costi della politica, però poi mi è venuto in mente che ci sono almeno un paio di cose che vi devo ancora segnalare per completare il giro delle aperture. Dal giornale che titola di Alessandro Sallusti, che titola 2012 uno stipendio in meno, e quindi sui costi, casa, consumi, conti corrente, benzina, redditi, le nuove imposte costeranno 2.000 euro a famiglia. C'è poi un fondo che racconta in una chiave amara i funerali di Don Verzè, tutti in fuga dal funerale, scrive Feltri. Perché? Cos'è accaduto? Se dunque anche il proverbio invecchia: chi muore giace, chi rimane si dà pace, bisogna aggiornarlo così, e chi rimane si dà alla fuga. Ai funerali di Don Verzè, fondatore dell'ospedale San Raffaele, il migliore d'Italia, un'autentica eccellenza europea, nei giorni scorsi appunto avrete sentito, abbiamo letto più volte insieme dei commenti di Feltri, che in questa settimana, anche prima appunto della scomparsa di Don Verzè, si è speso in difesa del fondatore del grande centro sanitario. Insomma, i big della politica non c'erano. In effetti si sono notate di più le assenze delle presenze, scrive Feltri, a dimostrazione che per chi finisce in disgrazia finiscono anche le amicizie. Negli ultimi tempi il prete ultranovantenne, che aspirava ad allungare la vita attiva degli uomini, era stressato. Dopo mezzo secolo e passa di lavoro, dopo aver concepito e realizzato un'opera grandiosa, dopo aver aiutato una folla di ammalati, dopo aver intessuto relazioni con personaggi importanti in ogni campo, è stato abbandonato da tutti, peggio, denigrato, oltraggiato, sfottuto, fatto oggetto di satira meschina e volgare. Insomma, è chiarissimo il tenore dell'invettiva di Feltri contro chi non c'era, sostanzialmente contro i politici assenti al funerale. Mentre, e con questo voltiamo pagina, volevo anche segnalarvi, abbiamo appena accennato al tema del diktat nigeriano. Diventa invece il titolo di apertura di Avvenire, quotidiano dei vescovi: folle diktat ai cristiani, i fondamentalisti della Nigeria dicono lascino il nord in 3 giorni, i vescovi chiedono l'intervento del governo. I terroristi, lo ricordiamo, sono gli stessi che hanno rivendicato le stragi della notte di Natale, che puntano ora sullo scontro religioso nelle regioni settentrionali nigeriane a prevalenza islamica. Così ricordo, piccolo promemoria, che la Nigeria è lo stato più popoloso dell'Africa, 150 milioni, e direi equamente divisi. Quindi non stiamo parlando di una minoranza cristiana della Nigeria, stiamo parlando di un paese diviso in un nord musulmano, un sud cristiano, in cui entrambe le religioni sono minoranze all'interno delle due regioni, cosa che per anni non ha creato particolari problemi, che invece ora diventa una vera e propria bomba sociale interna. Politici dunque, stipendi dei politici, il dossier. Ecco, per il Corriere della Sera, due pagine interne che raccontano di fatto la sintesi della commissione, che si era impegnata a farlo entro la fine dell'anno. C'è stato un po' di ritardo, ma tant'è, questo l'esito: più di 16.000 euro al mese, il record dei parlamentari italiani, contro i 13.500 di un deputato francese, i 12.600 di un tedesco, i poco più di 10.000 euro che guadagna un rappresentante della Camera olandese, 9.200 di un belga, 8.650 di un austriaco, e così via. Dati che parlano chiaro, ma che rischiano di servire a poco. Deputati e senatori italiani, insomma, si mettono in tasca il 60% in più rispetto alla media europea, ma quella media resta per sé pur sempre un calcolo a spanne, come ammette la stessa commissione. Su queste basi sarà molto difficile, anzi praticamente impossibile, fare scattare la mannaia sui costi della politica. La norma voluta da Giulio Tremonti, attesa dai presidenti di Camera e Senato, sembrava molto semplice: stipendi parametrati alla media europea, ma in realtà rischia di rivelarsi inapplicabile. Quell'articolo del decreto di luglio, come scrive la stessa commissione, presenta infatti aspetti di ambiguità e talvolta di contraddittorietà. E il gruppo di lavoro, guidato dal presidente dell'ISTAT Giovannini, composto da esperti di chiara fama, compreso un rappresentante di Eurostat, è letteralmente impazzito per tirarne fuori qualcosa di sensato e senza riuscirci. Ecco, da lì appunto il titolo che vi avevo letto poc'anzi di Libero, quando dice appunto la casta frega pure Monti. Il rapporto tra i vari problemi dice non solo i tempi strettissimi che sono stati concessi alla Commissione, quindi da una parte alla Commissione, però ci sono volute intere settimane per arrivare a definire che cosa debba essere considerato nel trattamento economico cui fa riferimento la legge, insomma settimane per definire cosa fa parte di uno stipendio, di un costo, cosa non ne fa parte. Poi c'è stato il problema dell'individuazione degli organismi omologhi a quelli italiani, che in molti casi negli altri paesi non ci sono. Quindi esplorazione di quanto accade in Europa e comparazione, perché naturalmente non è che abbiamo tutte le stesse istituzioni e gli stessi termini di riferimento. Poi la definizione del concetto di retribuzione, la legge italiana fa riferimento al lordo, ma come si sa a parità di retribuzione lorda le tasse e i contributi fanno una differenza abissale. Poi quello della ponderazione sul PIL, già, ma quale PIL se a prezzi correnti o parità di potere di legge o a parità di potere d'acquisto la legge non lo specifica. Spesso infine la raccolta dei dati, che spesso sono non ufficiali, che sono arrivati attraverso i canali diplomatici solo a partire dal 13 dicembre scorso. Fatto sta che dopo 3 mesi di riunioni a sprombattuto la Commissione Giovannini ha alzato le braccia e si è arresa. Una bella situazione davvero. Una lettura di questa vicenda e l'ambiguità della legge proprio nella pagina accanto. Sergio Rizzo ricorda intanto che per mantenere le due camere ogni italiano spende 26,33 euro l'anno, il doppio di un francese, 2,5 volte rispetto a un cittadino britannico. I risultati della commissione, che pure appunto abbiamo sentito così deludenti da un certo di vista, da un certo punto di vista, secondo Rizzo, comunque mostrano l'evidenza che per la prima volta un documento con i crismi dell'ufficialità assicura, insomma, alcune storture del sistema mettono seriamente in crisi il catenaccio avviato dai difensori dello status quo, pronti non soltanto a respingere qualsiasi taglio, indennità, rimborso e prerogativa, ma addirittura a rivendicare più soldi. Intanto, scrive Rizzo, è palese che lo stipendio nudo e crudo dei parlamentari italiani è di almeno 3.000 euro al mese, lordi si intende, più alto degli altri, quindi anche dei tedeschi, nonostante la Germania abbia un prodotto interno lordo pro capite del 25% più alto. E poi c'è la vicenda dei collaboratori. Sapevamo anche prima di leggere il rapporto della Commissione che i membri del Bundestag hanno diritto a una somma enormemente superiore, ma c'è una differenza: i deputati tedeschi non toccano un euro per i collaboratori, i loro collaboratori personali vengono pagati direttamente dal Bundestag, né più né meno come viene altrove, a cominciare dal Parlamento europeo. I nostri, invece, in molti casi se li mettono in tasca, puliti, senza imposte. Di più, quei soldi vengono da qualcuno utilizzati per fare il famoso versamento volontario al partito, con il risultato che si può persino portare in detrazione dalle tasse il 19% dell'importo su una somma già esentasse. Molti assistenti intascano paghe da miseria e in nero. Non è un caso che i collaboratori ufficialmente riconosciuti siano meno di un terzo dei deputati, quindi meno di un terzo dei deputati sono i collaboratori ufficialmente riconosciuti. Torniamo dalla politica, dalla casta, anzi in questa declinazione, all'attualità, alla cronaca, al lavoro. Il Messaggero di oggi raccoglie 3 casi molto diversi e diversamente drammatici, almeno in parte. E il primo, costretto a licenziare per la crisi, imprenditore si uccide a Catania. E ancora, deve restituire 5.000 euro all'INPS, pensionato barese si toglie la vita. E poi una storia diversa, ma a suo modo ben triste. Poche offerte, la chiesa chiude. Il parroco dice: la riapriremo a Pasqua. Il primo caso che vi ho citato è quello di Roberto Manganaro, 47 anni, gestiva insieme al fratello a Catania un'azienda che vende moto da oltre 30 anni. Si è tolto la vita, prima di morire non ha lasciato nessun messaggio, condizioni personali difficili, una crisi aggravata per la situazione dell'azienda, colpita da un vistoso calo delle vendite. Dall'altra parte è Bari, 5.000 euro da restituire all'INPS, una cifra insostenibile per lui. Si tratta solo di versare 50 euro al mese, lo avevano rassicurato tutti, ma lui si era incupito, il peso di questo debito inatteso lo ha portato al suicidio. In questo modo si è conclusa una vita a 74 anni di un lavoratore che si è trovato a che fare con un debito pesante e improvviso e imprevisto. La crisi invece nel Veneto, la crisi grava anche sui portafogli dei parrocchiani, e così per scarsità di offerte una chiesa del Trevigiano si trova costretta a chiudere i battenti per l'inverno e riaprire a Pasqua o comunque quando farà più caldo. Così ha deciso il parroco di Fontanelle di Treviso, Don Stefano Taffarelli, comunicandolo ai fedeli prima di Natale. Ben triste annuncio, è stato pubblicato sul foglio parrocchiale. La chiesa ha appunto chiuso i battenti e se ne parla a Pasqua. Effetti crisi. Ora sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi ripartiamo invece da part-time e pensioni per gli anziani. Insomma, cerchiamo di approfondire un attimo quello che è il contratto graduale di cui oggi dedica molto spazio ovviamente il Sole 24 Ore. Tra poco. Un mercato del lavoro più aperto e flessibile, un impianto economico fondato su di un'autentica concorrenza in grado di favorire la competitività delle aziende migliori. Il capo dello Stato ha indicato questi obiettivi come essenziali in un'Italia che voglia essere più moderna, in grado di giocare le sue carte nel mondo globale. Questo è un passaggio del punto questa mattina, Stefano Folli, naturalmente sul Sole 24 Ore, nel titolo che si riferisce ovviamente al 2012 che inizia, e con l'anno nuovo inizia appunto l'era della post-concertazione e l'attesa si concentra in queste ore su questa triangolazione che molti scelgono anche come titolo di apertura, molti giornali scelgono come titolo di apertura per arrivare appunto alla riforma del mercato del lavoro. Davide Colombo ci racconta sul Sole a pagina 10 questa mattina: part-time e pensioni per gli anziani, il Fornero lavora al contratto graduale. Di che si tratta? Allora, sarà sostanzialmente la proposta di riforma che il governo potrebbe mettere in campo dopo il confronto con le parti sociali sarà sostanzialmente legata a doppio filo alla logica totalmente contributiva delle nuove pensioni. Quello a cui si sta pensando è un modello di contratto graduale capace di accompagnare l'allungamento della vita lavorativa e le future uscite flessibili per il pensionamento. Come arrivarci, scrive Colombo, non è il tema di oggi, ma dalle prossime settimane. Il ministro del lavoro Fornero mantiene il massimo riserbo. L'obiettivo comunque è quello di superare nel più virtuoso dei modi possibili il dualismo che oggi blocca il nostro mercato del lavoro, con le tutele piene da una parte, importante ma minoritaria, e l'infinito ventaglio delle precarietà dall'altro. Per raggiungerlo, per avvicinarlo, questo equilibrio, si passerà da un confronto aperto con i sindacati e tutte le organizzazioni datoriali per conoscere prima le loro analisi dell'assetto attuale del mercato del lavoro e poi le loro proposte di intervento concreto. La logica del contratto graduale è comunque chiara. In un contesto in cui non conta più il peso dell'ultima busta paga per il calcolo della pensione, come si faceva con il residuo sistema di calcolo retributivo, deve valere un modello contrattuale legato all'intero ciclo di vita del lavoratore. Un contratto, per esempio, capace di prevedere tempi di lavoro graduati per i più anziani, dagli over 55 in avanti, che magari possono accettare una retribuzione inferiore e cominciare a incassare una parte dell'assegno previdenziale. Gli esempi in giro per l'Europa non mancano. Uscire dalle 8 ore di lavoro standard per rendere possibile l'allungamento della vita lavorativa, ora necessario per la pensione di vecchiaia, potrebbe essere una strada. L'altra potrebbe essere quella di graduare anche le mansioni del lavoratore, magari tenendo conto del ciclo di produttività, anche questo virgolettato associato al ciclo di vita, tutti i cicli questa mattina, con una conseguente revisione delle forme di retribuzione attuali che, guardando al passato, pesano di più solo negli anni finali. Ecco, questo naturalmente questo è solo una brevissima lettura di un approfondimento ben più ampio che trovate sul Sole 24 Ore questa mattina, con il dettaglio delle forme contrattuali tra lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo, in associazione e tutti, diciamo, punti di vista e commenti in questa fase di pre-trattativa, di messa a fuoco delle possibilità e degli interessi, appunto, rispettivi da tutelare. A proposito del Sole, vi segnalo che è da questa mattina e per 5 giorni trovate in pagina un vero e proprio manuale di consigli del Sole 24 ore per il 2012, un manuale in 5 puntate per convivere meglio con la crisi, con le nuove regole introdotte dalle 5 manovre che hanno costellato il 2011. Vi avevo accennato ai richiami dalle prime pagine all'intervista che il Messaggero richiama, appunto, l'intervista a Massimo D'Alema. Ve ne leggo solamente un passaggio che riguarda un po', che dà un po' anche il tenore del mese che verrà sul fronte europeo e sul fronte degli incontri a livello europeo, appunto, per la definizione del pacchetto fiscale, dei nuovi trattati. D'Alema di fatto indica la necessità di un vero e proprio smantellamento del direttorio Merkel-Sarkozy. Dice: io non ce l'ho con la locomotiva franco-tedesca in sé, che è un dato della realtà europea. La vera questione sono i contenuti del direttorio, che in realtà appare oggi più che altro espressione di una guida tedesca. La verità è che l'Europa soffre di una leadership miope e conservatrice, e cresce la convinzione che una politica di pura austerità, che abbia come esclusiva stella polare la stabilità monetaria, rischia di portarci nel vicolo cieco della recessione. E la recessione non consente certo di affrontare il problema dei debiti sovrani. La UE ha sofferto e soffre di un gravissimo deficit di solidarietà e di visione politica, dice D'Alema. È il frutto di un governo europeo di destra che non ha strategie per lo sviluppo, che ha una visione totalmente subalterna agli interessi dei grandi gruppi finanziari. Anche per questo, per uscire dalla crisi, c'è bisogno che si riapra un confronto politico a livello europeo. Merkel e Sarkozy hanno fallito, Monti lavori per la svolta, dunque Massimo D'Alema dice: bene l'invito ai summit, ma servono contenuti nuovi. Infine, diamo spazio anche a un altro tema, che è quello del cinema. Vi ho accennato stamattina il richiamo nella prima pagina della Stampa di Torino sul processo al Cine Panettone, addirittura. 9,7 milioni incassati da Vacanze di Natale a Cortina, quasi la metà di quanto incassò l'anno scorso Natale in Sudafrica. E da lì accuse, addirittura il processo, che in qualche modo si è esteso in questi giorni attraverso, appunto, i mezzi di informazione, una sorta di processo al modello che, appunto, Cine Panettoni rappresenterebbero. Guardi che è un po' presto per celebrare il nostro funerale, dice Neri Parenti, il cuoco che che con i Vanzina inventò la ricetta del cino panettone. Lui ammette la sconfitta, ma contiene le perdite, perché mai mal comune fu così mezzo gaudio. Sherlock Holmes gli chiedono, che è un po' stato il rivale e l'alternativa, peraltro con un apparente successo, ma Neri Parenti la vede diversamente. Dice: ma qualcuno vuol dire che la seconda puntata sta incassando molto meno della prima e che Il gatto con gli stivali va peggio di sé che dell'anno scorso? Insomma, la situazione secondo Neri Parenti sarebbe molto più generalizzata. La gente contiene i consumi e non è che ce l'abbia solo con noi. Ci sono poi i protagonisti, come Christian De Sica, vero e proprio campione del genere, che dice: diamo lavoro all'Italia, e ci trattano con astio. Tutto in crisi, tutto si è dimezzato, dice l'attore, non solo noi. Oltretutto mi sembra sciocco continuare a parlare male dei nostri prodotti. Il cinema americano non ci porta niente, mentre noi diamo lavoro a tanta gente qui in Italia, e se non sostenuti, almeno non andremmo così attaccati. Questo è il punto di vista di De Sica. Secondo, tornando appunto a Neri Parenti, ai commenti sui numeri di questo Natale al box office, al cinema, c'è un altro punto che riguarda i giovani. Decide il sesto potere: i ragazzini dai 12 ai 17 anni, quelli che twittano, che postano su Facebook i consigli sui film. Il successo dei soliti idioti, creatori di MTV, arriva da lì. Si dice che anche dalla cameretta del figlio adolescente di Pietro Valsecchi, il produttore di Zalone e degli Idioti, se fosse così semplice trovare la formula. In 40 anni sa quanti ne ho visti di Zalone, dice Parenti, e Pozzetto, e Abbattantuono, e Peraccioni, ma il risultato non è garantito per nessuno. E proprio Zalone doveva fare un botto con il suo show in TV e si è fermato a un terzo degli ascolti di Fiorello. Insomma, una faccenda che non è semplice, non è positiva per nessuno. Resta appunto un dibattito con molti commenti intorno a quello che la stampa definisce processo al cinepanettone. Noi siamo a conclusione, vi anticipo solamente con un richiamo dal Foglio questa mattina in edicola. C'è un commento, il titolo è: altro che i missili, cosa succede con le sanzioni contro la banca centrale dell'Iran? Altro che i missili, ovviamente un riferimento al lancio, al test compiuto nelle ultime ore dagli iraniani. Di questo, della crisi appunto nel Golfo Persico, torneremo a parlare a partire dalle 8:30, ma adesso è tempo di passare la linea agli aggiornamenti di GR24. A più tardi.